La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Quella di oggi è una puntata che ha al suo interno tante storie e tante prime volte. La prima, tra tutte, è la storia di una città, Napoli. Una città tanto complessa, difficile da descrivere e di chi, appunto, l'ha saputa raccontare perfettamente. E stiamo parlando di un grande della musica italiana, Pino Daniele. Dopo Totò viene Pino Daniele. Penso che per conoscere Napoli a fondo si possano ascoltare le canzoni di Pino Daniele. Pino Daniele è il buono di Napoli. Il poeta di Napoli, è tutto di Napoli Pino Daniele. Pino Daniele vuol dire infanzia, ricordi, in famiglia, la musica in generale. Per un campano penso che più di Pino, a livello, come rappresentatività, non ci sia niente. Pino Daniele, cresciuto nei vicoli di Napoli, ha creato un'immagine nuova della città, come raccontò lui stesso in un'intervista meravigliosa a Enzo Biagi, del quale vi facciamo sentire un estratto. Senta, lei sembra un senza patria, nei suoi testi c'è un misto di anglo-italo-napoletano, come mai? Ma c'è anche questa ventata moderna di anglo-americano, però la patria c'è, insomma. È una patria molto larga. Una patria molto larga. Che rapporto c'è tra la sua musica e i classici della canzone napoletana? Il sentimento, io credo che il sentimento anche della musica nuova che si fa oggi a Napoli è simile al sentimento che si è sempre fatto nella canzone napoletana. È soltanto che cambiano le forme, cambiano i modi, però il sentimento è lo stesso. La canzone per lei che cos'è? È un modo di vivere o è qualcosa per vivere? Ma per me è qualcosa per vivere, l'espressione anche dello stato d'animo di certi momenti e la possibilità di poter dire quello che si pensa, che non si riesce a dire a volte con le parole. E ti sento quando scende scale e corsa senza guardare e ti vega tutte i giorni, cara renna, vai a fatica. Una patria larga, dunque, che racchiude all'interno anche una rete di artisti che assieme hanno contribuito ad esportare un'idea della città diversa dai soliti cliché. Musicisti, attori, poeti, pittori, tra loro anche Teresa De Sio, in uscita da qualche settimana col suo album Teresa Cantapino, del quale vi facciamo sentire ora un estratto di Quando Chiove. L'acqua d'un fune va. Quando chiava l'acqua d'un fonte va, tanta l'aria sa da cagnà. Ma questa è un'idea veramente che è nata subito dopo la scomparsa di Pino. Ho sentito questo desiderio, insomma, cioè ho questa necessità, questa... Sì. Questa specie di atto di devozione, e avrei voluto già realizzarlo questo disco un anno e mezzo fa, due anni fa. Poi ho pensato che avrebbe potuto essere frainteso come gesto, risultare... Cioè dici accodarsi magari al dolore della scomparsa. Sì, esatto, voglio dire, è anche prematuro perché poi avrebbe prevalso anche il lato emozionale, emotivo anche da parte mia, e quindi ho lasciato che questa idea ribollisse un po' dentro di me, crescesse, e adesso quest'anno ho deciso che era arrivato il momento per poterla mettere, farla camminare insomma sulle sue gambe e realizzarla. E quali canzoni hai scelto? Stato difficile perché Pino ha una produzione immensa, sterminata e quindi diciamo ho dovuto fare una full immersion in tutta la sua produzione per parecchio tempo. Alla fine ho optato per il pino napoletano, quindi quello che fosse più vicino al mondo, diciamo, proprio di pino, quello più collegato a Napoli, quello più quello secondo me che lo rappresenta meglio e più profondamente come autore. Quindi ne ero a metà tutto quel pino Daniele lì, quel pino degli inizi, che in fondo è vero, cioè raccontava bene anche la città e gli altri lo sentivano proprio come parte. Sì, certo, certo. Ovviamente le scelte sono state fatte in base anche alla mia vocalità, ma più che la vocalità, come queste canzoni potessero essere portate nel mio mondo sonoro. Perché quello che mi interessava era mantenere intatto Pino come scrittore, come autore, quindi le melodie e i testi, però trasportare tutto in un mondo sonoro che mi appartiene di più, anche perché replicare le sonorità e le modalità linguistiche, diciamo, musicali di Pino sarebbe stato inutile. non l'avrei mai fatto, sarebbe stato inutile e ridicolo, perché meglio di Pino nessuno può fare Pino. Mentre invece il lavoro che è stato fatto è stato proprio quello di ribaltare le cose, portare verso di me il mondo sonoro, quindi bypassare tutto quell'aspetto legato al blues e alla musica afroamericana che sono le caratteristiche musicali di Pino, e portare il tutto verso il mio mondo, che è più folk rock. Sì. E partuto io amore, se ne chiuta l'America. Chi so fosse mai pensata ieri, chi so fosse mai creduta. Il fatto che per esempio c'è un inedito in questo disco, che è l'unico brano che ho scritto io, e come è dedicato a Pino, si chiama O Iammone, e che io ho scritto seguendo l'idea di non essere assolutamente né retorica né nostalgica né malinconica, e così come un po' tutto il resto del disco nasce con l'idea di non essere, con la volontà di non essere né malinconica né celebrativa né retorica, perché sai, quando ci si avvicina poi a un autore importante, diciamo come Pino, e soprattutto che non c'è più, e si può scadere nella retorica, mentre invece io ho cercato di fare un disco estremamente vitale. Vitale. E Oyamone? Vitale, cioè è musica viva che va suonata. Senti, l'ultima domanda è: Oyamone cosa significa? Nella parlesia, che è la lingua segreta dei musicisti napoletani, vuol dire il boss. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. La prima volta. Autentica rivelazione di quest'estate musicale, Teresa Dessio. Teresa Dessio, giustamente salutata da questo applauso per Foglie d'una. Era il 1982, in una caldissima serata estiva, una giovane Teresa Dessio si esibiva al Festival Bar con la sua Voglie d'una. È una città che ha tante cose da dire, è una città stratificata che parla più lingue dal punto di vista musicale. Teresa De Sio, classe 1955, voce inconfondibile, cresciuta in una Napoli piena di fermento, di idee, di progetti artistici, è amica di Pino Daniele e ha appena pubblicato un album di canzoni dedicate al cantautore partenopeo dal titolo Teresa canta Pino. Un album che parla di Pino Daniele, ma parla anche di amicizia e di riscatto. Non è un caso che la De Sio, in questo album, abbia fatto delle scelte bellissime. La prima è quella, ad esempio, di cantare Napulè coi ragazzi di un liceo musicale di Scampia che qui sentiamo. Ecco, volevo parlare anche di te, perché è vero che Pino rappresenta la napoletanità, come dicevi tu, nel senso proprio più profondo, anche della ricerca artistica. Certe sonorità raccontano proprio Napoli, te la fanno ricordare, sentire quasi il profumo, ma anche tu non scherzi, nel senso che il lavoro che hai fatto tu è incredibile, perché anche tu sei riuscita a fare un percorso che partisse dalle origini per poi arrivare a tutt'altro, cioè proprio come scelte anche appunto il folk, la musica che si fonde. Ecco, quanto c'è, cioè, come mai questa città resta così attaccata addosso ai musicisti, agli artisti? È una città che ha tante cose da dire, è una città stratificata che parla più lingue dal punto di vista musicale. Sì. Questo avviene anche perché è una città che ha avuto tante dominazioni nel corso del tempo, della storia, e a Napoli ci sono stati i francesi, ci sono stati gli spagnoli, ci sono stati i turchi, gli arabi, per ultimi gli americani, anche se in forma diversa. E da tutte queste culture i napoletani hanno saputo trarre il meglio e conservare, fondere e creare una sorta di lingua pan-mediterranea. E questo è una grandissima forza. E poi tu in qualche modo sei stata anche antesignana, nel senso che sei stata una delle prime cantautrici che ha usato la lingua, cioè il napoletano, ed è diventata poi famosissima in tutto il mondo. Tra l'altro tu vanti delle collaborazioni musicalmente incredibili. Questo quanto è stato, diciamo, faticoso? Cioè il tuo inizio con A Uma Uma, cioè tutte quelle canzoni, com'è andata? Raccontare l'inizio. Cioè, è stato come sempre tutti gli inizi pieno di incoscienza, perché quando si inizia non si ha la consapevolezza di quello che si sta facendo e si va avanti così, no? Si va avanti molto per istinto e meno per decisioni e scelte, quindi è difficile ricostruire. Però dico, tu nasci, quello che io volevo sapere, quello che posso dire è che io mi ricordo che a quell'epoca non mi interessava la musica che veniva da oltreoceano, non perché non la conoscessi, non la frequentassi e non la apprezzassi, ma perché sentivo che dovevo fare qualcosa che fosse più mio, più italiano, più, e in particolare anche più napoletano, visto che sono napoletana. E né d'altra parte mi interessava la musica leggera tout court, quindi fu per me abbastanza naturale creare questo tragitto, questo linguaggio che fondeva il napoletano con il pop, con il rock, con il folk. E tutto questo nasceva anche da uno studio, perché tu comunque sei una musicista che ha fatto molta ricerca anche storica nella musica dell'Ottocento, del Novecento. Sì, anche dalla ricerca, ma anche dalla vita, voglio dire. Sì. Io ho sempre pensato che serve che la cultura... Che della cultura serve sia la cultura intesa come ciò che sai, quindi quella accademica, sia come ciò che sei, quindi come quella antropologica. e quindi cultura antropologica e accademica insieme riescono un po', in più ci metti un po' di vitalità tua. Ecco, tu lavori sempre con altri musicisti, com'è la scelta? È ormai consolidato il gruppo oppure sei sempre alla ricerca di... No, io adesso ho un gruppo consolidato con cui suono da svariati anni, però ovviamente in 30 anni di lavoro ho cambiato svariati gruppi, ma anche a seconda del tipo di musica che cerco di fare in quel determinato momento, in quel periodo storico particolare. Magari ho bisogno di persone che siano più vicine al mondo folk, e altre volte ho bisogno di persone più vicine al mondo rock, altre volte ho bisogno di tutte e due insieme. Cioè quasi sempre questo, la terza cosa quasi sempre. È fondamentale. Cosa fai quando tu scrivi delle canzoni, come parti? Parti dal testo, parti dalla musica, com'è che arrivi poi alle tue composizioni? Non esiste una regola. Me lo dicono tutti. In genere, no, può nascere prima il testo o prima una serie, una progressione armonica sulla chitarra o sul piano, e poi un'idea, la voglia di una frase, una melodia, cioè le canzoni arrivano da più porte. Volevo chiederti se tu hai, che tipo di formazione hai avuto tu, cioè quanto hai studiato, che cosa hai studiato, oppure se sei un autodidatta. Dal punto di vista musicale sono un autodidatta. E quali strumenti hai iniziato a suonare? La chitarra da subito? Sì, la chitarra da adolescente, perché suonavo le canzoni di Fabrizio De André, di Joni Mitchell, di John Baez, di Dylan. Ed eri sostenuta dalla tua famiglia in questo tuo percorso oppure, come dire così, era qualcosa che restava là, non se ne accorgevano del tuo talento? No, ero sostenuta. Con leggerezza. Diciamo non sono mai stata ostacolata, ecco. Sì, beh, io sono andata via da casa a 17 anni e mezzo, appena ho finito la scuola, il liceo. Quindi ho potuto fare tutto quello che io volevo fare. Torniamo su questo nuovo disco. Intanto questo nuovo disco arriva in un momento insomma importante della tua vita. Ma diciamo che io l'ultimo anno della mia vita è stato un anno molto travagliato da svariati lutti e cose molto pesanti. Quindi è un momento della mia vita questo, diciamo, di rinascita. Sto uscendo fuori da un periodo molto, molto faticoso, molto pesante sul piano personale, non professionale. E questo disco mi ha molto sorretto, mi ha molto aiutato. Quindi devo moltissimo all'idea di fare questo disco, di farlo in questo momento e di farlo in questo modo. La prima volta termina qui. Ci ritrovate sul sito di Radio 24 alla pagina La prima volta, oppure venite a dire la vostra su Facebook alla pagina Radio 24 La prima volta. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Napoli.